Incontri di Gianfranco Fabi. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say that you're on the road. Geronimo di Shepard, con queste note molto incalzanti iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera, quanti sono con noi? E buonasera Cristina Scocchia. Buonasera. Cristina Scocchia, amministratore delegato di L'Oreal Italia. Ma prima di parlare di lei e dell'Oreal Italia, parliamo di Geronimo. Perché Geronimo? Perché è la canzone preferita di mio figlio, che ha 6 anni, adora questa canzone, quindi più che farcela sentire ce la fa subire in continuazione. E quindi anche questa sera dedicata a lui. Dedichiamo a suo figlio, che sarà sicuramente in ascolto. Un saluto al figlio. Quanti anni è? Ha 6 anni, si chiama Riccardo, quindi dedicata a Riccardo. Quindi comincia la scuola, ha già fatto il primo anno? Ha fatto la prima elementare, appena ha preso la prima pagella ed era preoccupatissimo di non essere promosso già in prima elementare. Tutto bene. Allora è una mamma di un bambino, ma è anche amministratore delegato di L'Oreal. Avendo un bambino di 6 anni non si dice l'età, comunque l'età è certamente giovane. Ma come si diventa amministratore delegato di L'Oreal così giovani? Credo di aver avuto una grande fortuna, che è quella di lavorare in due grandi multinazionali che credono nel talento senza nessun tipo di discriminazione. Ho passato poi tanto, oltre 13 anni della mia vita all'estero, e vivere e lavorare in un ambiente multiculturale mi ha arricchito molto come persona e come manager. E poi ho sempre creduto che il successo collettivo fosse più importante di quello individuale, per cui ho passato sempre tanto tempo, investito tante energie nel creare dei team forti, dei team coesi, dove ognuno fosse motivato a dare il meglio di sé per il raggiungimento dell'obiettivo comune. E credo che questi siano 3 ingredienti principali del mio percorso. Quindi anche la possibilità di portare in azienda un'esperienza di famiglia, cioè possiamo considerare l'azienda come qualcosa in cui c'è una cordialità di rapporti come ci può essere in famiglia, una costruzione di qualcosa? Assolutamente sì, tutti noi passiamo tantissimo tempo al lavoro, quindi credo che il lavoro deve essere soprattutto un posto in cui ci troviamo bene, in cui siamo portati a dare il massimo di noi sul lavoro, ma deve essere anche un posto dove creiamo delle belle relazioni interpersonali con le persone che lavorano insieme a noi. E quindi è possibile essere mamma, avere famiglia eppure avere un impegno così forte nel mondo del lavoro? Non è facile conciliare tutti i ruoli, sarei un po' falsa se dicessi che è facile. Sicuramente non lo è, ma ci si può riuscire. Il mio motto è: non si può avere tutto, ma si può provare a conciliare tutto. Come? Cercando di priorizzare i momenti più importanti in ogni ruolo. Perché in ogni ruolo ci sono dei momenti che fanno veramente la differenza, e in quelli bisogna esserci con tutta se stessa e con tanta energia. E poi bisogna imparare invece a delegare gli altri momenti, quelli che sono un po' meno importanti. E credo che questa non sia una ricetta che vale per tutti, però nel mio caso mi ha aiutato molto. Quindi però fin dall'inizio hai avuto l'idea di entrare in azienda, di avere un ruolo importante, laureata alla Bocconi, già da studente pensava di avere un impegno di questo tipo? Qual era la sua ambizione quando entrava nelle aule della Bocconi? Devo dire che il mio sogno professionale fin dall'inizio, fin da ragazzina, era quello di diventare amministratore delegato. E in effetti mi ricordo ancora che nel primo colloquio di lavoro nell'azienda nella quale poi ho passato oltre 15 anni mi chiesero: ma lei come si vede fra 14-15 anni? Io mi ricordo che con la sfrontatezza che hai a 20 anni ho risposto: ma non so se ce la farò mai, però vorrei diventare amministratore delegato. Complimenti, io volevo fare l'ambasciatore e poi mi ha toccato fare il giornalista, pensi un po', ma mi sono divertito lo stesso. Quindi in un certo senso anche fare l'amministratore delegato è certamente un grande impegno, però è un lavoro creativo, un lavoro in cui c'è bisogno di avere un grande rapporto con le persone, di avere una grande capacità di valorizzare i talenti. Io credo che questa sia la cosa più importante. Nessuna azienda può aver successo se non parte dalla risorsa più importante, che sono le persone. Ed è per questo che in L'Oreal stiamo affrontando un percorso di change management che è proprio finalizzato a passare da una leadership più gerarchica ad una leadership leadership più partecipativa, più responsabile. Il nostro obiettivo è quello di passare da una cultura manageriale basata sul controllo ad una cultura manageriale basata invece sulla fiducia, perché io credo che quando prevale la fiducia le persone sono più soddisfatte, se sono certo. più soddisfatte sono più alla fine anche produttive. Allora diciamo subito, L'Oreal non è solo un marchio ma è soprattutto un'impresa, che dietro al marchio c'è un'impresa, una grande impresa multinazionale. Diamo una carta d'identità rapida dell'Oreal e soprattutto dell'Oreal Italia. Allora L'Oreal è un grande gruppo che si occupa di cosmetica, è il leader mondiale della cosmetica a livello mondiale, e anche in Italia abbiamo dei brand bellissimi, da L'Oreal Paris a Garnier a Maybelline, ma anche Lancôme, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Vichy, La Roche-Posay, tanti brand che nessuno associa al nome L'Oreal, che invece fanno parte di queste 28 marche internazionali bellissime che sono parte integrante appunto della nostra azienda. In Italia siamo una realtà importante, abbiamo un fatturato consolidato di 1.100 milioni e 2.000 collaboratori, e quindi siamo una realtà presente in tutti i canali distributivi. Non siete solo una realtà commerciale in Italia, ma anche una realtà produttiva. Assolutamente sì, abbiamo a Settimo Torinese lo stabilimento più grande che L'Oreal ha nel mondo, tra i 45 stabilimenti che L'Oreal ha nei diversi continenti, e siamo molto fieri perché crediamo che questo sia un fiore all'occhiello non solo per L'Oreal ma anche per l'Italia, perché questo stabilimento ha raggiunto veramente ottimi livelli di produttività, nonostante nel nostro paese si dica sempre che il costo del lavoro e il costo dell'energia sono molto alti. E quindi anche la scelta appunto di una multinazionale come L'Oreal di puntare su questo stabilimento anche con nuovi investimenti, con nuove opportunità, con un'attenzione particolare mi sembra anche all'ambiente, alla sostenibilità ambientale. Assolutamente sì, innanzitutto noi abbiamo deciso di investire molto in automatizzazione, grazie dei partner locali, dei fornitori dell'Emilia Romagna abbiamo reso la fabbrica altamente automatizzata senza nessun impatto negativo sull'occupazione, e questo ci ha permesso appunto di essere molto produttivi, ci ha permesso un paio di mesi fa di ottenere anche la produzione dello shampoo ultra dolce per tutta l'Europa. Questa produzione prima veniva in Polonia, e quindi per una volta le produzioni, invece di andare dall'Italia alla Polonia, dalla Polonia siamo riusciti a portarle allo stabilimento di Settimo Torinese. E quindi è uno stabilimento che produce non solo per l'Italia ma anche per il resto del mondo. Anzi, noi il 92% della produzione di Settimo Torinese viene esportata in 38 paesi nel mondo, solo l'8% rimane sul nostro mercato. E come diceva lei prima, adesso stiamo investendo molto anche per diventare uno stabilimento verde. Entro settembre riusciremo a produrre a zero emissioni di anidride carbonica grazie a una partnership virtuosa con la municipalizzata del comune di Settimo Torinese, che produrrà per noi dell'energia verde. E la cosa molto interessante è che questa energia verde ci costerà meno dell'energia non verde che utilizziamo al momento. Come dire, la sostenibilità fa bene all'ambiente ma fa bene anche al conto economico. Ecco, in questa prospettiva quante persone lavorano a Settimo Torinese? Come coinvolgete i lavoratori in questa strategia di sostenibilità ambientale? Al momento abbiamo 400 persone che lavorano a Settimo Torinese, sono persone molto motivate, molto contente, perché sono consapevoli che lavorano in una realtà di eccellenza e partecipano in prima persona allo sviluppo della fabbrica e a tutte le innovazioni che stiamo portando avanti dal punto di vista, come dicevo prima, dell'automatizzazione ma anche della sostenibilità ambientale, e ci tengo molto a sottolinearlo, partecipano attivamente anche a progetti di responsabilità sociale, perché a Settimo stiamo portando avanti delle iniziative importanti anche sul fronte della disabilità. Ecco, ci fermiamo qui un attimo questo escurso sulla realtà dell'Oreal con Cristina Scocchia, riprendiamo tra pochi secondi, restate. Incontri di Gianfranco Fabi. So con Geronimo De Shepard, una canzone dedicata al figlio di Cristina Scocchia. Come si chiama suo figlio? Riccardo. Riprendiamo il nostro incontro di questa sera appunto con Cristina Scocchia, amministratore delegato di L'Oreal Italia. Abbiamo parlato nella prima parte della sua carriera breve ma intensa, che l'ha portata appunto al primo posto, a essere in prima fila in questa grande società multinazionale, una delle più grandi società, anzi la prima società cosmetica mondiale, che ha una grande presenza anche in Italia, anche non solo a livello livello commerciale, ma anche uno stabilimento a Settimo Torinese, e abbiamo parlato nella prima parte anche della particolare attenzione alla sostenibilità ecologica, agli investimenti che L'Oréal ha fatto nello stabilimento italiano, in cui sono state portate produzioni anche presenti prima in stabilimenti esteri, quindi che produce per tutta la realtà mondiale dell'Oréal. E anche sul fronte della ricerca e dell'innovazione l'Italia ha un ruolo nella questa multinazionale, Cristina Scocchia. La ricerca è importantissima per L'Oréal. Noi investiamo ogni anno oltre 860 milioni di euro in ricerca, abbiamo 4.000 persone che sono dedicate a tempo pieno a fare ricerca e innovazione in 23 poli di ricerca nel mondo. In Italia non abbiamo un polo di ricerca perché ci affidiamo a quello francese copre l'area di tutta l'Europa occidentale, ma un'attenzione molto forte per tutti i paesi, incluso il nostro, anche perché molto spesso proprio qui in Italia nascono delle tendenze che poi vengono riprese dal gruppo. Gli italiani e le italiane sono famosi per essere attenti alla moda, sì, al fashion, al design, al lifestyle, e quindi molto spesso ispirano anche i trend della cosmetica. Ecco, tra l'altro appunto il mercato della cosmetica è un mercato che ha abbastanza tenuto negli ultimi anni nonostante la crisi, insomma il gusto del bello è rimasto. In questo senso è un mercato certamente complicato, difficile, molto concorrenziale, ma è un mercato che è ancora qualcosa di positivo all'interno della realtà italiana. Sicuramente il mercato della cosmetica ha tenuto molto meglio di altri mercati che sono stati impattati dalla crisi in maniera più decisa. Purtroppo anche il nostro mercato ha visto un segno meno, ha visto una contrazione negli ultimi anni, sia a volume che a valore, soprattutto nei canali tradizionali, che sono i canali in cui L'Oréal è presente. Però fortunatamente possiamo dire che il 2015 si è aperto all'insegna di una crescita, di una ripresa di tutti i principali mercati, di tutti i principali canali, quindi incrociamo le dita e speriamo che sia un anno di riprese importante. Ecco, abbiamo parlato nella prima parte della sua volontà di conciliare anche la famiglia e il lavoro, anche nonostante le difficoltà. L'Oréal è anche un'azienda in cui la presenza femminile è molto forte. Sì, siamo un'azienda che favorisce il merito, e come dico sempre, quando viene favorito il merito... Quindi le donne sono più brave, diciamo. No, le donne sono brave tanto quanto gli uomini. Io credo che il talento sia equamente distribuito tra uomini e donne, quindi nel momento in cui si dà a tutti, uomini e donne, senza differenza, la possibilità di dimostrare il proprio talento e il proprio merito, le donne e gli uomini si affermano in ugual misura, ed è quello che sta succedendo in L'Oréal. Ma non c'è un certo conflitto di interessi tra la cosmetica e l'essere donna? In fondo è vista molto la cosmetica come qualcosa di femminile, quindi il femminile può portare qualche elemento in più in una logica appunto di anche di strategia commerciale della cosmetica. Io credo che gestire un'azienda indipendentemente dalla cosmetica o dal settore in cui opera non sia un mestiere da uomini o un mestiere da donna. Io credo che alla fine quello che conta è il conto economico va gestito sia che si producano tondini sia che si producano cosmetici. È ovvio che però nelle responsabilità di marketing una grande sensibilità per il beauty può essere importante, ed è importante, però questa sensibilità per il beauty ce l'hanno sia talenti donna sia talenti uomo. Devo dire che in L'Oréal abbiamo dei talenti veramente straordinari con un grande senso del beauty, e questo senso del beauty posso proprio provare che è per gli uomini e per le donne. Ma quanto pesano i prodotti maschili nell'insieme della produzione cosmetica, della commercializzazione dell'Oréal? Per adesso la stragrande maggioranza dei prodotti è ancora rivolta a un pubblico femminile, ad eccezione dei profumi, dove noi abbiamo tra l'altro nel nostro portfolio prodotti Giorgio Armani ha da sempre la fragranza maschile numero uno in Italia e nel mondo, quindi nei profumi diciamo che la componente maschile è importante, nel totale è ovvio che le donne ancora la fanno da padrone, la cosmetica è ancora prodotto, più femminile. Quel prodotto che negli ultimi anni ha avuto più successo, più crescita, che tipo di prodotto, in che settore? Ultimamente negli anni della crisi tutte le categorie hanno visto una contrazione ad eccezione del make-up. Il famoso lipstick index è una teoria ancora valida. Diciamo che durante la crisi le consumatrici hanno comunque deciso di non rinunciare al colore, al make-up, e quindi questa categoria ha visto ancora dei segnali di crescita, e recentemente sono tornati a crescere anche i profumi, che questo per noi è un ottimo segnale, perché è un segnale che piano piano tutte le varie categorie merceologiche stanno tornando alla positività, alla crescita. Qui c'è una ricerca del bello in fondo, ma c'è anche una ricerca appunto dal punto di vista aziendale del buono. Hai parlato prima di responsabilità sociale. Cosa vuol dire responsabilità sociale in una realtà come L'Oréal? Io credo innanzitutto che un'azienda leader, per definirsi tale, non debba essere solo quella che ha il fatturato più grande, ma debba essere innanzitutto quella che ha dei comportamenti etici e sociali che siano quanto più possibile positivi ed esemplari. Quindi L'Oréal, come società leader del settore della cosmetica, si è da sempre posta l'obiettivo di essere esemplare anche nella responsabilità sociale, ed è per questo che ci stiamo impegnando su tanti fronti anche in Italia. Innanzitutto ci siamo presi l'impegno di garantire l'accesso al mondo del lavoro a 2000 persone, una persona per ognuno dei nostri collaboratori. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che entro il 2020 vogliamo favorire l'accesso al mondo del lavoro di 2000 persone che sono nate in condizioni svantaggiate. Per farlo abbiamo iniziato a collaborare con la Piazza dei Mestieri, un'associazione no profit molto importante nata a Torino e adesso in crescita in altre regioni d'Italia e a Catania in particolar modo, che dà un aiuto ai ragazzi nati dalla parte sbagliata della città perché possano finire il loro percorso di studi, possano imparare un mestiere e possano inserirsi nel mondo del lavoro. Non solo L'Oréal, ma anche in altre realtà, ovviamente. Assolutamente, noi abbiamo iniziato a sponsorizzare i corsi per parrucchiere, per mestieri legati al mondo della bellezza. Ora abbiamo deciso di sponsorizzare nella totalità l'attività di Piazza dei Mestieri, perché crediamo che tutti i mestieri che questi ragazzi imparano siano una grande opportunità per loro per trovare un inserimento nel mondo del lavoro. L'anno scorso poi abbiamo iniziato una partnership con San Patrignano, che tutti noi conosciamo, una comunità di recupero di tossicodipendenti, perché di nuovo riteniamo di poter dare un nostro piccolo contributo. La bellezza interiore è importante, il prendersi cura di sé, il valorizzare se stessi è importante nel percorso di recupero di questi ragazzi e soprattutto di queste ragazze di San Patrignano. Quindi stiamo facendo dei corsi di make up che aiutino proprio le ragazze a valorizzarsi, e questo fa parte del percorso terapeutico che stanno affrontando nella comunità. E infine lavoriamo molto con l'Arte nel Cuore, una onlus di Roma che si occupa di disabilità, di sindrome di Down, di persone che attraverso l'espressione artistica vogliono ogni giorno migliorarsi e allargare i propri spazi di autonomia. C'è anche un premio dell'Oréal destinato soprattutto alle donne, mi sembra. Assolutamente, noi siamo impegnati anche sul fronte della scienza e vogliamo aiutare le giovani scienziate sotto i 35 anni a emergere nel campo scientifico. Perché? Perché sappiamo purtroppo che la maggior parte dei ricercatori è ancora uomo, la maggior parte delle posizioni apicali nel mondo accademico sono ancora appannaggio degli uomini. Ripeto quello che dicevo prima, il talento è equamente distribuito, quindi ci vogliamo impegnare per favorire queste ragazze che con tanto impegno, con tanta passione cercano di emergere in una professione, quella dello scienziato, che è ancora molto maschile. È ancora molto maschile, però l'Italia ha grandi esempi, anche il responsabile del CERN di Ginevra è una donna, e quindi questo porta sì, anche le donne ormai sono dappertutto, possiamo dire, fortunatamente, perché portano anche una grande capacità, una grande vitalità. Allora, Cristina Scocchi, amministratore delegato di L'Oréal, quali sono i suoi obiettivi per il prossimo futuro all'interno dell'azienda, ma anche nella vita? Iniziamo innanzitutto dall'azienda. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un importante percorso di change management che ci ha permesso di fare un turnaround, ci ha permesso dopo tanti anni di tornare alla crescita. Quest'anno quindi l'obiettivo è di consolidare la crescita che abbiamo raggiunto nel 2014, renderla ancora più importante e sostenibile nel tempo. Questo per quanto riguarda l'azienda. Per quanto riguarda i miei obiettivi personali, come dico sempre, i sogni non si confessano perché altrimenti non si avverano. No, lasciamoli pure sogni personali. Lei ha anche una responsabilità in campo associativo nell'ambito di Cosmetica Italia, nell'ambito di Confindustria. Come giudica? La rappresentanza è un po' in difficoltà in questo periodo. È comunque importante, sono importanti queste associazioni portare avanti degli interessi collettivi su questi fronti? Io credo che sia importantissima la vita associativa, perché in un momento difficile in cui i mercati sono ancora in affanno, in cui la ripresa inizia a palesarsi all'orizzonte ma non è ancora concreta, forte, è importante che si lavori a livello associativo sulle necessità fondamentali degli imprenditori, dei manager, delle aziende, perché queste possano veramente ritornare a crescere, ritornare a offrire occupazione. Quindi io credo che il lavoro che Confindustria fa, tutte le associazioni fanno, sia indirizzato aiutare i piccoli imprenditori così come i grandi imprenditori, le piccole aziende così come le grandi aziende, a ritrovare questo percorso di crescita che fa bene all'economia e fa bene a tutti. Per concludere, possiamo avere fiducia allora per i prossimi mesi, per i prossimi anni? Abbiamo le energie e la passione sufficiente per affrontare anche le difficoltà? Io sono sempre molto positiva, io credo che l'Italia comunque sia un paese che ha grandi potenzialità, non ce lo diciamo spesso, ma siamo l'ottavo paese per PIL, siamo la seconda, siamo secondo paese per quanto riguarda la produzione manifatturiera in Europa, abbiamo oltre 1000 eccellenze di prodotto che il mondo ci riconosce e ci invidia, abbiamo creatività, know-how, passione da vendere, quindi abbiamo tutto quello che è necessario per ritornare ad agguantare la crescita e a veramente ricreare occupazione. Dobbiamo mettere forse giustamente l'accenno sulle cose positive, dottor Spero, siamo abituati molto più a lamentarci, ogni tanto lamentarci fa bene, però guardare in avanti, guardare con positività la realtà è anche forse ancora più utile. Sicuramente l'Italia ha tanti difetti come tutti i paesi, però guardare il bicchiere mezzo pieno aiuta perché ci dà l'energia per renderlo ancora più pieno. Allora grazie, complimenti e buon lavoro all'interno appunto di una realtà multinazionale. L'Italia ha bisogno di essere all'avanguardia e lo è all'avanguardia in molte cose, dobbiamo riconoscercelo e sapere anche comunicarlo. Grazie a Cristina Scocchia. La ringrazio, serata a tutti. Grazie di essere stata con noi questa sera, grazie a Michele Previato in regia, Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica.